parte di ghiaccio. Questo è ciò che sento. This is the end of a world. This is the end of me. This is the end of a world. This is the end of me. Sono pensieri che non conosci. This is the end of a world. This is the end of me. This is the end of a world. This is the end of me. Minimi soffi improvvisi, capogiri, liberi come l'acqua, pesanti come la terra. Siamo in gioco con la vita, un gioco di morte e vita. Ardenti contenti di ridere sul serio dei nostri tentativi. Mal riuscite ombre, sotterranei quieti. Di nuovo amanti, ancora prostitute e badanti. Leggeri, abili, tremanti e vivi, respiri dai ritmi imprecisi. Siamo in gioco con la vita, un gioco di morte e vita. Minimi soffi improvvisi, capogiri, liberi come l'acqua, pesanti come la terra. Siamo in gioco con la vita, un gioco di morte e vita. Attenti, contenti di ridere sul serio dei nostri tentativi. Mal riuscite ombre, sotterranei quieti. Di nuovo amanti, ancora prostitute e badanti. Leggeri, abili, tremanti e vivi, respiri dei ritmi imprecisi. Siamo in gioco con la vita, un gioco di morte e vita. Scrivo gesti su muri invisibili, sento passi di ombre labili.